24 di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Patrizia Greco, milanese, sposata, una figlia, due nipoti, laureata in legge, entra di Tartel, scala tutti i gradini, diventa amministratore delegato, passa alla Siemens, sempre come AD, poi ancora un'esperienza nel mondo delle consulenze per approdare all'Olivetti, ancora come numero uno. Intanto entra nei consigli di amministrazione di società sempre più importanti, adesso è la prima donna presidente dell'Enel e vuole la discontinuità per favorire l'ingresso nella società degli agenti del cambiamento, anche con i progetti di Enel Cuore di cui ha conservato la presidenza operativa. È nella lista delle 50 donne più potenti del mondo. Beh, mica male, presidente Greco. Eh? No, non male. Devo dire. Una delle 50 donne più potenti del mondo, che effetto fa? Emoziona? Beh, emoziona molto, sì, certamente. Senta, tante aziende diverse, abbiamo detto nella presentazione, un'esperienza che consiglia? È un'esperienza che consiglio perché favorisce certamente un continuo cambiamento di approccio, la capacità di vedere i problemi in modo diverso, di vedere esperienze. E si fa carriera più in fretta? Forse anche, però io guardi, ero già amministratore delegato quando ho cominciato a cambiare, quindi non era un tema di carriera. Non era quello. Proprio di esperienza. Ecco, ma quando ha lasciato l'Italtel dopo tanti anni, c'è stato più dolore o più curiosità per il futuro? Puro dolore. Dopo 25 anni era una mia creatura. Sì. Senta, adesso è la prima donna presidente dell'Enel. Ha detto subito sì? Sì. Perché? Ho detto subito di sì perché così mi pareva un punto, spero non un punto d'arrivo, ma insomma un punto importante della mia carriera, una carisce. Grande azienda. Ah, sì. Certo. Ecco, presidente Greco, fare il presidente però vuol dire lasciare la trincea per diventare garante di tutti. Le piace? Sì, devo dire mi piace, è molto più impegnativo francamente di quanto potessi pensare, essere il garante di tutti, dare trasparenza rispetto alle azioni della propria società, non nel senso che gli altri certo, non ne diano, no, insomma, ma quello è il suo compito, essendo il mio compito principale, fare del governo societario un asset anche economico, perché deve essere poi venduto sul mercato, un'avventura tutta ecco, nuova. Ecco, presidente Greco, lei ha scoperto delle qualità in sé che in trincea non conosceva di sé? Forse un po' più di equilibrio. La trincea spinge a essere un po' più radicali. Sì. Ecco, e qual è il difetto invece che ha dovuto combattere di più? Il fatto che stare in trincea mi piaceva. Senta, per accettare a posto delle condizioni? No. Nessuna. No. Senta, presidente Greco, ma però si guadagna poco, è un problema? Beh, è un problema nel senso che quello del lavoro secondo me è un mercato come qualunque altro, quindi dovrebbe essere fatto soltanto dall'incrocio della domanda. Insomma, e dell'offerta. C'è stata un po' di demagogia, insomma, nella definizione dei stipendi dei top manager delle pubbliche. Secondo me c'è stata, come dire, una deriva forse un po' eccessiva. Senta, presidente Greco, lei ha detto che la sua parola chiave nel suo mandato è la parola discontinuità, vuol dire più donne all'Enel? Vuol dire anche più donne all'Enel, vuol dire valorizzazione di tutte le risorse che possono contribuire alla crescita dell'Enel. Ma più donne all'Enel è un obiettivo del suo mandato o no? Più donne all'Enel, la diversità è certamente un obiettivo del mio mandato. Abbiamo appena avviato un grande progetto di diversità che riguarda naturalmente anche le donne. Enel è una grande multinazionale, quindi deve saper valorizzare non solo le donne, ma le culture diverse, i linguaggi diversi. Ma ne ha trovate molte in posizione di comando di ma donne all'Enel? Ma devo dire che ce ne sono in posizioni di comando. Quindi non è una società maschilista? No, non è una società maschilista, certamente è una società fortemente industriale, quindi molti blue collars e quindi la percentuale bassa di donne in Enel dipende anche da quello. Senta, presidente Greco, quanto conta una visione al femminile del potere? È una domanda alla quale francamente è difficilissima. Ma il potere non è né buono né cattivo, dipende da come lo esercitano uomini e donne. Sì, però il valore aggiunto di genere al netto delle competenze. Il valore aggiunto di genere è legato anche quello alla discontinuità, cioè noi non siamo state per molti anni rappresentate, adesso incominciamo a rappresentare qualcosa e penso che saremo efficaci in quanto saremo agenti del cambiamento, quindi favoriremo un cambiamento più ampio. Ecco, presidente Greco, l'Enel che voi avete ereditato è un gigante che si è sviluppato molto in tutto il mondo con le acquisizioni, è una politica da consolidare? Io penso il nuovo piano è in fase di elaborazione, verrà presentato credo a marzo dell'anno prossimo. Penso che sarà un piano fortemente orientato alla crescita. Ah, quindi nel futuro dell'Enel ci sono altre acquisizioni, non dismissioni? Nel futuro dell'Enel ci sarà una forte attività di focalizzazione. L'attività di focalizzazione può prevedere anche delle dismissioni se non rientrano più nella traiettoria strategica dell'azienda. Ma certamente sarà un piano fortemente orientato alla crescita. E quindi anche forse altre acquisizioni. Anche attraverso acquisizioni. Senta, Presidente Greco, avete ereditato però questo gigante con molti debiti, troppi? Il debito oggi è perfettamente sostenibile. Noi abbiamo certamente un livello di debito elevato, se però guardiamo anche alla crescita del valore dell'azione negli ultimi 12 mesi, credo che sia cresciuto intorno al 25%, vuol dire che quel debito non preoccupa particolarmente. Il mercato ci crede. Sì. Quindi non troppo debito. Ecco, lei dice che discontinuità vuol dire che solo chi non ha partecipato avrà uno sguardo nuovo e una forza innovatrice. Quindi la competenza è utile ma anche un limite. No, la competenza non è mai un limite. In realtà io penso che anche chi ha già partecipato, se si pone in modo differente rispetto al cambiamento, può continuare a partecipare. Lei tenga conto che c'è un processo di obsolescenza nelle competenze fortissimo, quindi come dire, anche chi le ha si deve rinnovare continuamente. Si deve rinnovare, quindi anche dentro se stesso, quindi essere discontinui e competenti è possibile. È possibile, è possibile. Lei si sente discontinua e competente? In fondo sì. Da sempre? Come Forse come attitudine certo, però forse da questo punto di vista sono più innovativa oggi di quanto non fossi 20 anni fa. Cioè, come il vino buono, insomma. Ma non so. Senta, ma uno competente e innovativo insieme che l'ha molto colpito nella sua vita, nella sua avventura manageriale, ce l'ha in testa? Competente e innovativo mi viene in mente, devo dire, per esempio Pasquale Pistorio, il grande capo di ST Microelectronics ai tempi della fusione con i francesi del 50-50. Cioè uno che teneva insieme insieme secondo me bene quelle due componenti, poi ce ne saranno anche molti altri. No, ma dico nella vita che ha incontrato, lei c'ha un modello a cui ispirarsi? No, non particolarmente. No, inventa. Non amo tanto i role model, devo dire. Inventa la sua vita, beh, mi sembra fantasia al potere al 68. Senta, Presidente Greco, torniamo in fondo di quegli anni lì sono. Torniamo alla beata ignoranza, diciamo. Prima da laureata in legge all'Italtel ha studiato tutto sui bit. Adesso all'Enel studia tutto dell'energia. È un business semplice o complicato? Più semplice o più complicato delle telecomunicazioni? Sono entrambi complicati, entrambi straordinariamente interessanti, sono le grandi infrastrutture di sviluppo per un paese, fondamentali per lo sviluppo di un paese, entrambi entrano nelle case di tutti noi, quindi hanno molti aspetti in comune, ma fondamentalmente entrambi sono le infrastrutture su cui correrà lo sviluppo del nostro paese. Ecco, ma che cosa la sorprende di più del mondo dell'energia che non si aspettava rispetto alle telecomunicazioni? La vera differenza è l'impatto dell'energia sull'ambiente e la sostenibilità, che devo dire rende l'energia ancora particolarmente interessante, il fatto che lo sviluppo energetico debba essere conciliato con uno sviluppo ambientale sostenibile, quindi ha due sostenibilità, sostenibilità dell'azienda e la sostenibilità della comunità e dei luoghi in cui l'azienda opera. Studia molto? Molto. Molto. Una secchiona? Una gran secchiona, da Presidente Greco. Ma vendere energia in tempi di crisi non dovrebbe significare abbattere le bollette per i cittadini e per le imprese? Guardi, le bollette sono brutte, le bollette sono composte dal prezzo dell'energia, dalle accise, dal sostegno allo sviluppo delle rinnovabili che tanta importanza hanno nella riduzione dell'emissione e nel raggiungimento dei target europei sulla riduzione delle emissioni che rendono più sostenibile l'ambiente. Non sono le più alte d'Europa. Per i cittadini non sono le più alte d'Europa, sono tra le più alte per l'impresa, è stata una scelta di politica industriale. Infatti molte imprese non investono in Italia perché costa troppo l'energia. Il costo dell'energia è un fattore di competitività, però diciamo che questo paese ha da rimuovere molti altri ostacoli quanto alla capacità di attrarre investimenti. Adesso parliamo del suo di ostacolo che è l'energia. Senta, Presidente, però in genere, appunto, sul mercato, quando un prodotto si vende meno si fanno i saldi. Voi però saldi ne fate pochi sulle bollette. Noi saldi non li possiamo neanche fare, però c'è certamente la possibilità di passare dal mercato regolato al mercato libero. Molti clienti di Enel stanno passando dal mercato a maggior tutela o regolato al mercato libero, perché Enel sul mercato libero può fare delle offerte differenziate, può offrire anche l'efficienza energetica. Senta, Presidente Greco, so che lei ha tenuto per sé la delega di Enel Cuore, la società, la no profit, la onlus no profit del gruppo, che ha sostenuto più di 570 progetti investendo 52 milioni di euro aiutando bambini, malati, anziani, carcerati, adolescenti, giovani. Perché ha voluto per sé questa delega? Perché fare qualcosa per gli altri in modo attivo fa da qualche anno parte della mia vita anche di lavoro. Io sono anche nel consiglio di Save the Children da qualche anno, spero che almeno sulla filantropia nessuno, come dire, possa parlare di conflitto di interessi, perché spero che proprio non ci sia. E quindi il fatto di occuparmi di Enel Cuore lo trovo particolarmente interessante. Anche per dare velocità. Pensiamo di, è stato fatto tantissimo, 52 milioni sono davvero tanti, no? E penso che non ma si quali sappia... sono le linee di sviluppo di Enel Cuore della sua presidenza? Della mia presidenza sono due fondamentalmente: il fatto di essere più incisivi facendo dei progetti più significativi su due, posso chiamarle categorie, sempre più a rischio, che sono le persone anziane e i bambini. Sì. E i giovani come agenti del cambiamento? Ma i giovani io penso che ci siano anche altri strumenti, no? Sì. Quindi c'è una politica di rinnovamento in azienda. In Enel sono entrate 2500 giovani negli ultimi due anni, peraltro sulla base di un'azione avviata dalla precedente gestione. Sì, sono infatti entrate... Conti aveva detto che assumeva 1500. E ne abbiamo assunti 2500. Quindi oggi il 25% della popolazione di Enel in Italia è sotto i 35 anni, quindi ci sono altri strumenti per favorire, come dire, che Enel può usare per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Invece di Enel Cuore, focalizzato filantropia per giovani e donne non vada bene, è il merito che va, diceva ieri l'altro giorno qua il ministro Orlando, anche nelle carceri invece c'è molto da fare con strumenti come il vostro, non so se è nei vostri obiettivi. Presidente, lei ha scelto molti collaboratori nella sua vita. Si fida di più del suo istinto o della società di consulenza? Beh, oggi del mio istinto, però devo dire che lo screening fatto dalle società di consulenza è molto spesso utile. Cioè, insomma, arriva 3-4, poi dopo sceglie lei. Ecco. E che cosa la colpisce di più in un giovane da assumere? L'ansia. L'ansia. Noi abbiamo ridotto una generazione ad avere poca fiducia in sé. No, ma volevo dire cosa la colpisce di più per assumere. Cioè, che cos'è una qualità? Insomma, le competenze sono importanti, no? Il modo in cui... È sotto il profilo psicologico? La determinazione. Mm. Senta, intanto per fare sviluppo, il governo cerca fondi con le privatizzazioni di Enel, Eni, Poste. Poste ha rallentato, voi? Ah, non lo so, dovrebbe chiederlo al nostro azionista. Quindi i tempi non li sa, che tempi vi siete dati per... Non ce li diamo noi. Non te li dà. Senta, Presidente Greco, gli altri paesi però difendono la proprietà pubblica dei loro campioni nazionali, noi no, perché? Beh, noi non l'abbiamo difesa in qualche caso abbastanza evidente. Beh, nel caso di Enel però l'azionista tesoro oggi è ancora più del 30%. Sì, però in generale come modello industriale noi non abbiamo difeso i campioni che hanno fatto lo sviluppo dell'Italia. Perché probabilmente c'è stato un eccesso di difesa di quei campioni che ha portato a una reazione del mercato, e quindi lei sa come vanno i cicli economici, come vanno le mode anche in economia. Ecco, ma a proposito di mode in economia, tornerà la moda di fare un nuovo IRI, secondo lei? Non so se tornerà la moda di fare un nuovo IRI, penso tuttavia che in questo momento l'industria italiana debba essere anche sostenuta nella sua crescita. Speriamo che torni a crescere, speriamo che... Quindi si può chiamare in un altro modo, ma potrebbe essere una... Penso che debba essere una cosa... come dire, da prendere in considerazione. Credo anche che alcuni strumenti di cui si sia dotato il governo per rilanciare alcuni comparti dell'industria italiana, come il Fondo Strategico Italiano, siano in quella direzione, non nel senso di fare il nuovo IRI, ma nel senso di contribuire al rilancio dell'industria italiana. E la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe avere una funzione del genere? Beh, quello che ho citato è una componente della Cassa Depositi e Prestiti. Presidente, lei è moglie, madre, nonna, equilibrio difficile, eh? Non me lo ricordo neanche più, bisognerebbe chiederlo a mia figlia. Ormai l'ho superato. È anche difficile, però la famiglia è altrettanto anche un grande elemento di stabilità rispetto alla propria vita lavorativa. Ecco, ma lei che cosa vorrebbe essere sicura di riuscire a insegnare ai suoi nipoti? Tante cose, ma l'impegno, l'importanza dello studio, l'importanza della formazione e anche un po' di etica, che bisogna lasciare un mondo migliore di quello che si riceve. Il suo marito, il signor Presidente? Ma lei, scusi, parliamo di cambio culturale, ma che domanda è questa? Lei la farebbe a un uomo, no? Sì, certo, tutti i giorni la faccio. Senta, ma le quote rosa sono la strada giusta per valorizzare il ruolo delle donne? Io devo dire non ho una risposta definitiva. Dico soltanto che in un paese in cui l'occupazione femminile è al 44% contro il 58% della media europea, dove le donne dirigenti erano intorno al 12 contro il 18% della media europea, insomma uno strumento top-down, strumento, come dire, dall'alto verso il basso era necessario. Adesso poi sta a noi costruire invece dal basso verso l'alto. L'altro gradino. Senta, Presidente Greco, l'Economist dice che dal 2008 oggi si è dimezzato il valore delle prime 20 società energetiche del mondo. Ci siete anche voi però lì in mezzo. Ma io veramente vedo il titolo Enel che negli ultimi 12 mesi o nel corso del 2014 è cresciuto del 23%. Vedo dei target dati dagli analisti, target price del titolo, che sono più alti di oggi. Quindi devo dire non lo so, dal 2008 oggi non lo so, non mi occupavo di energia. Oggi mi pare che il titolo che potrebbe stare meglio, però quindi il modello di business dell'Enel è giusto? Mi pare di sì. Mi pare che sia premiato dal mercato. Ma se la vostra capacità però produttiva aumenta, come aumenta, e il consumo cala, che cosa serve produrre di più? Beh, infatti è stato annunciato anche un piano di dismissioni di alcune tipologie di centrali, perché non c'è dubbio che la crescita delle rinnovabili ha comportato anche una obsolescenza più rapida in alcuni altri strumenti di generazione. Beh, voi vi siete adattati. Abbiamo l'ingegner Starace l'ha appena annunciato e quindi lo seguiremo con grande attenzione. Ecco, ma l'esplosione del solare e dell'eolico devono trasformare velocemente il vostro business. Beh, non c'è dubbio, questo è un pezzo della discontinuità che è anche un'industria, mi lasci dire, statica fino a qualche anno fa, oggi deve affrontare quindi dei cambiamenti molto forti anche sul fronte dell'innovazione tecnologica. La crescita delle rinnovabili impone alle reti di essere sempre più, lo semplifico, intelligenti, sempre più in grado di gestire i flussi dal centro verso la periferia, ma anche dalla periferia verso il centro. Quindi, però in questa diversificazione, e nel Green Power è una società diversificata rispetto a questo punto, adesso siete in causa con lo Stato. Beh, com'è sta storia? L'Enel fa causa a se stessa, l'azionista, c'è un'associazione di categoria che ha deciso di opporsi all'ultimo decreto che impone discontinuità sugli incentivi alle rinnovabili, fondamentalmente per un motivo, perché nel nostro settore la retroattività delle leggi è molto pericolosa. Allontana gli investitori. C'è una legge che è retroattiva e voi la contestate, quella legge l'ha fatta il governo e quindi siete in causa col governo. L'associazione di categoria alla quale noi aderiamo è in causa col governo. Autorevolmente, va bene. Quali sono i settori principali di innovazione vostra? I settori principali di innovazione sono certamente le rinnovabili. Stiamo sperimentando a Castiglioncello una macchina, la chiamo così, per il moto ondoso, per trarre energia dal moto ondoso, che è certamente molto interessante. I temi delle smart grid, i temi della rete, i temi della mobilità elettrica, ci sono tanti settori di innovazione ed è leading edge da questo punto di vista. Ma pensi che ieri c'era un ragazzo qua che ha inventato, ha brevettato delle traversine dei treni? delle rotaie che sono prodotte con materiale come dire, di riciclo e producono energia al passaggio del treno. Ce lo mandi? Ve lo mando sul serio. Ce lo mandi? Perché veramente ci ha colpito molto. Presidente Greco, ecco, la crisi rende il rapporto con l'Europa sempre più difficile. In Europa il governo Renzi ha imboccato la strada giusta? Beh, io credo che in Europa il governo Renzi stia facendo bene, perché spinge tutta l'Europa a riconsiderare i valori fondanti dell'Europa stessa, che non erano soltanto il rigore, ma erano la solidarietà, venivamo da due guerre mondiali, la solidarietà, la democrazia. E lo sviluppo. E lo sviluppo, perché sono le basi per, sono le basi per la solidarietà e per la democrazia. Senza sviluppo è difficile che resistano entrambe. Quindi il governo Renzi, secondo me, sta facendo bene nel tentativo di, muovere l'opinione pubblica. Insomma, verso... un po' di rattamazione in Europa ci sta. Penso che stia facendo anche molti proseliti, mi pare. Probabilmente anche il contesto che lo aiuta. Senta, Presidente, la sua nomina appunto è legata alla scelta di Renzi di dire tutte donne alla presidenza degli enti pubblici. Questo la lega definitivamente alle sorti del governo Renzi? Non lo so, questo davvero non posso saperlo. Io ho fatto un mio percorso di carriera. Certamente, se non ci fosse la discontinuità voluta dal governo Renzi, probabilmente non sarei seduta qua. Se, ma intanto, a proposito di seduta da qualche parte, ho sentito che le chiedono anche di entrare nel consiglio di amministrazione della Bocconi, è così? Mi piacerebbe molto, sono milanese. Ma gliel'hanno chiesto? Me l'hanno chiesto. Ci va quindi? Spero di andarci. Sì, ci vado. Questa ci è una notizia. Senta, Presidente Greco, le faccio l'ultima domanda. Molti dicono crisis opportunity, cioè la crisi come opportunità. C'è una visione al femminile della crisi che ci aiuti a viverla come un'opportunità? Guardi, io, scusi, non amo gli stereotipi. No. Personalmente questo è uno dei peggiori che io sento. Ah, così, proprio due schiaffi? Lo dica a quelli che stanno vicini alla soglia della povertà, che la crisi è un'opportunità. La crisi non è un'opportunità, la crisi è la crisi. Vinceranno le aziende, i sistemi, i paesi che la sapranno affrontare con grande determinazione. Beh, ma opportunità nel senso che costringe a ripensarsi proprio sulla linea della discontinuità che dice lei. Sì, ho capito. Però in quella discontinuità dobbiamo tener conto che per molte fasce di popolazione non è un'opportunità. Ah, certo, beh, non è un'opportunità. Okay, sicuramente, grazie. Mix 24. Allora, Mario, titolo? Ma lo forzo un po', però insomma c'è un senso in quello che sto per fare, un piccolo calembur. Ritorna a Liri. Pietrangelo. La luce è donna, l'elettricità è femmina. È il buio, è signorino. Musica, maestro. Degna la vita di colui che è sveglio, ma ancor di più di chi diventa saggio. Sia lode, lode all'inviolato, lode all'inviolato. Allora, intanto per fortuna sei tornato fra noi. Allora sì, è l'aiuto chiaro di un'invisibile carezza, ed è quella di un custode, colui che aiuta ad attraversare le tempeste e le antiche prove. E questa non è una canzone, questa è una preghiera, perché è il racconto del risveglio, il risveglio alla vita e ricongiungersi alla gioia della lode all'inviolato. Oggi è venerdì e la prima preghiera, quella dell'aurora, è ben più di un'ispirazione. Nelle cadute c'è il perché della sua assenza, ma le nuvole, come spiega questa preghiera di Franco Battiato, non possono annientare il sole. Sapeva bene Paganini. E nella pentola del mondo cosa bolle, Mario? La realtà. Abenomics ha three arrows. La Abenomics è costituita da tre frecce. La prima è quella di una politica monetaria audace. La seconda è costituita da una politica fiscale flessibile. La terza freccia continuerà a incentivare gli investimenti privati. Allora, abbiamo fatto il buon Shinzo Abe, adesso un breve così strappuntino di Abe, ma la verità è che ci occupiamo di una cosa molto affascinante, molto complicata, che però ha un enorme impatto sulla nostra vita, e cioè del grande gioco delle banche centrali. E allora, come avevamo detto a Mix 24, la Fed ha chiuso il cosiddetto quantitative easing, cioè la politica ultra espansiva è cambiata, diciamo, sono molto più prudenti, anche perché i dati economici dell'America sono molto buoni, insomma abbiamo una crescita media del 3.5, bisogna vedere se questa sarà stabile o meno. Ieri leggevo alcuni report che dicevano che su questo non c'è ancora sicurezza, in ogni caso la crescita c'è, punto e a capo, questo. E uno dice vabbè, quindi tutto a posto, e stanno succedendo cose fantastiche, perché mentre noi dormivamo la Banca del Giappone faceva un'altra mossa. E cosa ha fatto? Tante volte ho spiegato che le banche centrali sono in una sorta di battaglia e pace continua, guerra e pace continua, e hanno espanso ulteriormente il programma di acquisto di titoli, quindi la politica monetaria della Banca del Giappone diventa ultra aggressiva. Pensa, Giovanni, un piano da 80 trilioni di yen all'anno, 80 trilioni, che sono 724 miliardi di dollari, e comprano asset di vari tipi, titoli a lungo termine emessi dal governo giapponese, fondi, titoli emessi da fondi immobiliari. Ovviamente di cosa si tratta? A cosa serve tutto questo? A cosa serve? Serve a sostenere l'economia giapponese, in particolare la terza fase di Abe, che è quella degli investimenti e delle riforme. La Abenomics è entrata in una fase decisiva. Kuroda, il governatore della Banca del Giappone, ne è uno degli artefici. Ho letto un po' di documenti della Bank of Japan prima di entrare in trasmissione stamattina presto, sono molto interessanti. Il voto del board è stato di 5-4, si sono divisi, ma in realtà non era una divisione profonda, era solo sulla dimensione, diciamo, di questa politica espansiva. Segnalo che i verbali della Bank of Japan e della Fed sono pubblici, quella della BCE ancora no, e mi pare francamente ora che si arrivi a renderli pubblici. E raccogliere il nostro zar! Buongiorno, cadetti! Siate i benvenuti sul cammino glorioso che farà di voi l'elite dell'esercito della nostra grande Russia imperiale. Il soldato russo è valoroso, stoico e paziente. Per questo è invincibile. Vogliate bene ai vostri soldati russi. Ora! E Putin ha emesso il conto, Giovanni, Pietrangelo. E che conto? 4.6 miliardi per rifornire di gas l'Ucraina. Alla fine, con tanta pazienza, si è messo al tavolo, fornirà 4 milioni di metri cubi di gas e tutti improvvisamente sono soddisfatti. Come mai hanno raggiunto l'accordo, ve lo chiedete? Come mai? Faceva freddo, molto semplice. E hanno trovato, e hanno trovato improvvisamente la quadra. Ancora una volta il generale Inverno rimette tutto. Bravissimo, Pietrangelo. Salamini. Siamo uomini o garantisti? Mettere il gettone nell'iPhone, la famosa frase di Matteo Renzi, usata per sfottere i sindacalisti, i massimalisti, fa il paio con la celeberrima invettiva «Non andiamo certo a cercare le farfalle sotto l'arco di Tito», era quella del figlio di un fabbro quando mise sugli attenti l'Italietta. Allora, se questo motteggio forgiò un'epoca, quella degli elettricisti del PD, per usare una felice espressione di Marco De Marco oggi sul Corriere della Sera, ha già incontrato la realtà e dunque la contraddizione. Vengo a staccare la spina dei magistris, così aveva detto Lorenzo Guerini, il vice di Renzi, andando a Napoli doveva disarcionare dei magistris, e dopodiché il cortocircuito, cioè il TAR della Campania rimette in sella dei magistris, e siccome la questio è vexata assai, creato il precedente, qualcuno si pregusta linguacchio ed è Berlusconi che tomo tomo, cacchio cacchio, vuole battere la stessa strada. De magistris che fu giustizialista si fa garantista, e Berlusconi che fu garantista si appella alla legge, al TAR, alla Corte Europea, al giudice di Pinocchio. Vi ricordate cosa diceva? Ci sarà un giudice a Berlino? Sbagliò direzione. A piedi grotta doveva andare. Bella questa, da dove? Molto. È Totò, è tutto Totò questo. È tutto Totò questo, sì. Non me lo ricordavo. E appunto siamo uomini garantisti. Mix 24. Allora Mario, ci racconti ancora una bolla? Abbiamo una cosa un po' da... così, di investigazione. Senti, ma... Cosa? Sono a un passo dall'inventare un congegno che elimina il frastuono di un'arma da fuoco. Sai che sono passati 3 mesi dal tuo ultimo caso. Non pensa che sia ora di trovarne un altro? Non posso darle torto. La mia mente si ribella al ristagno. Datemi problemi, datemi lavoro. Prima è, meglio è. Il giornale. Allora, Sherlock Holmes, tu direi, ma Mario, che ti sei dato ai thriller, anche un po' ogni tanto, però insomma, ho letto questa cosa, già l'avevo letta per un'altra città, cioè per Chicago. Allora, i poliziotti vogliono, sono decisi, e i governi sono decisi a imitare i Minority Report. Philip Dick evidentemente li ha suggestionati. Insomma, prima Chicago, adesso a Londra, vogliono usare dei software per cercare non di prevenire, che già insomma, ma di predire i crimini, e dunque... Quindi è un'app da vendere a chi l'ha visto, diciamo, sostanzialmente. Insomma, secondo me qua siamo sul confine delle, tra il controllo sociale totale, quindi totalitario ovviamente, e le buone investigazioni. A mio avviso dovrebbero tutti rileggere un po' di Sherlock Holmes. Canzoniere. Simile a un dio mi sembra quell'uomo che siede davanti a te e da vicino ti ascolta mentre tu parli con dolcezza e con incanto sorridi, e questo fa sobbalzare il mio cuore nel petto. Se appena ti vedo subito non posso più parlare, la lingua si spezza, un fuoco leggero sotto la pelle mi corre, nulla vedo con gli occhi e le orecchie mi rombano. Simile a un dio mi sembra quell'uomo che siede davanti a te. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Ma è venerdì, è la fine della settimana ed è il momento della posta del cuore. Scriveteci a mix24@radio24.it. Posta del cuore. Siete nel pieno della maturità sessuale. Ero nell'appartamento di un poco più che ventenne. Chi se ne frega dell'età, delle parole crociate, dei soldi per il taxi lasciati sul tavolo. Stavo così bene che avrei fatto qualsiasi cosa per tenermi questo sballo. Questi ragazzi poco più che ventenni sono pronti a tutto. Non ho l'età. Lettera, una Mrs. Robinson, e dice: la vita comincia a 40 anni, mi è sempre sembrato uno di quei motti autoconsolatori per depresse sul viale del tramonto, una di quelle frasi fatte sulla falsariga del se ti ha tradita l'avevi già perso, oppure se lo ami lascialo libero, una boiata insomma. Ma oggi che ne ho 51 di anni mi sento rinata, Sono innamorata, ricambiata e in certi momenti mi sembra persino di vedere un futuro luminoso con un uomo degno di questo nome. Però, c'è sempre un però, lui di anni ne ha 27. Sì, 27. È appena più grande del mio figlio maggiore e sarebbe il pretendente perfetto per la mia minore. E invece sta con me, in segreto, da 8 mesi. E adesso pretenderebbe di vivere la nostra storia apertamente. Ma già me le vedo le facce di amici e conoscenti, per non parlare del mio ex marito. Lui può frequentarle, le ventenni, anche farci un figlio, senza apparire ridicolo, patetico, squallido. Ma proprio perché è scontato che l'età anagrafica di un uomo si misuri in potere e successo, mi verrebbe voglia di fregarmene, di smettere di nascondermi, e invece continuo a rimandare. Perché lo so che la vita non inizia né a 40 né a 50, lo so che dovrei lasciarlo, ma non posso, perché lo amo. Come posso smettere di vergognarmi? Mrs. Robinson, Pietrangelo, l'amore è un'età? Che domanda. Allora, non lo so, questa signora come si chiama? Mrs. Robinson. Ah, quindi è un po' pirittolla. Scrive da Albione, immagino. Allora, se pensi che io possa imbarazzarmi rispetto a questo quesito, ti offro un esempio alto. E cioè che il profeta Muhammad, a lui la gloria, ebbe per sposa Khadija, la vedova, molto più grande di lui. Mm. Ed è un esempio di grande luce, di grande amore e di grande potenza spirituale. Quindi, se la signora ritrova in lui qualcuno che possa farla rifulgere, è una barakà, una benedizione. Ah. Hai capito. Quindi Pietrangelo, un uomo non è tale in base alla sua età anagrafica? No, un uomo è tale in base al suo sigillo, a quello che è. Già dalla nascita, a maggior ragione poi dopo nel transito. Quindi io sono fregato. Quindi scriveteci. scriveteci le vostre storie. Sì, mix24@radio24.it. E invece io cosa voglio dire a Mrs. Robinson? Che abbiamo fatto tanto per la nostra libertà di scelta, di autodeterminazione, e direi che in realtà come generazione ha fatto più lei di me, e alla fine diventa schiava della sua vergogna? Ormai nemmeno un ultrasettantenne, tra l'altro, Mrs. Robinson, può darti garanzie di stabilità in amore, perché potrebbe sempre scappare con 15, 18, 20, 25, 30 anni. Nemmeno garanzie economiche, perché magari Renzi decide di tagliargli la pensione. Quindi cogli l'occasione e pensa solo all'amore. Ah, accidenti, che bel consiglio. Scriveteci a mix24@radio24.it. Oggi, dopo il giornale radio, vi raccontiamo la storia di un'invenzione che ha rivoluzionato i costumi e la moda nel mondo, i blue jeans. Marina Milone intervisterà alla fine un altro re dei blue jeans, che è Renzo Rosso. C'è qualche ultimissima notizia, Mario? Sì, stavo guardando, insomma, sempre per restare in Russia, molto divertente, Gazprom ha detto che vuole il pagamento della bolletta dall'Ucraina entro il 10 di novembre. Bene. Vabbè, subito, intanto, tac, la data. Intanto, per raccontare la storia, dicevo, dell'invenzione dei blue jeans, sentiamo questo piccolo accenno di storia. Renzo Rosso, genio del jeans, chi è per lei il signor Levis? Ma sai, da Levis abbiamo tutti quanti un po' preso la cultura, perché da lì fondamentalmente carino. Io mi ricordo, da piccolo andavo a comprarmi questi capi stra vintage di 50 anni fa o 70 anni fa, li compravo in Giappone a 3 milioni e mezzo di lire, quindi delle cifre esorbitanti, per prendere proprio i micro dettagli della cultura di come veniva fatto questo prodotto, che poi questo prodotto non era fatto per la moda, ma era fatto per i lavoratori. Abbiamo un vincitore del canzoniere che è Giampiero da Roma. Giampiero? No, sei caduta la linea? È caduta la linea. E allora abbiamo un tweet, Pietrangelo? Sì, Valentina Fantozzi ha fatto un Twitter dove ha indovinato, è simile a un dio. Valentina Fantozzi, la sua fidanzata, Alice, canzone finale della settimana di De Gregori e Ligabue. Ma la sposa aspetta un figlio.